Ma, disse Margaret, non mi avete ancora detto per quale motivo scioperate? Perché, vedete, disse Higgins, ci sono 5 o 6 padroni che si sono rifiutati di pagare i salari che hanno pagato sti 2 anni e ci si sono arricchiti ben bene con quei soldi. E adesso vengono da noi e ci dicono che prenderemo di meno. Invece no, ci faranno morire di fame prima. E poi vedremo chi lavorerà per loro. Scommetto che la uccideranno la loro gallina dalle uova d'oro. E quindi intendete morire per vendicarvi di loro? Oh no, disse lui. Non è vero, preferisco sicuro morire al mio posto che arrendermi. Questo è quello che fa onore a un bravo soldato e perché non a un povero tessitore. Ma, disse Margaret, un soldato muore per la causa della nazione, per gli altri. Lui fece una risata macabra. Mia cara figliola, disse, siete solo una ragazzina, ma pensate che non riesco a mantenere 3 persone, cioè Bessie, Mary e me, coi 16 scellini alla settimana? Pensate che è per me stesso che faccio sciopero stavolta? È per un ideale, per gli altri, come quel soldato. Solo che forse lui muore per la causa di qualcuno che non ha mai neanche guardato negli occhi o di cui non ha mai sentito parlare in vita sua. Mentre io sostengo la causa di John Boucher, che vive qui a 2 porte, c'è la moglie malata e 8 figli, e nessuno in età da fabbrica. E non sostengo soltanto la sua di causa, anche se è un povero buono a nulla, perché non ce la fa a usare più di 2 telaie alla volta, ma sostengo la causa della giustizia. Perché dobbiamo avere salari più bassi oggi, chiedo, di 2 anni fa? Non chiedetelo a me, disse Margaret, non so nulla di queste cose. Chiedete a qualcuno dei vostri padroni, vi darebbero sicuramente una spiegazione. Non sarà soltanto un capriccio il loro. Ah, non siete che una forestiera, nient'altro che una forestiera, disse con disprezzo. Ma che ne capite voi? Chiedere ai padroni. Ci direbbero di farci gli affari nostri, che loro i propri li sanno fare da soli. Gli affari nostri sono, lo capite, no? Prendere paghe più basse e ringraziare pure. E gli affari loro sono di ridurci alla fame per aumentare i loro profitti. Ecco come stanno le cose. Ma, disse Margaret, determinata a non cedere, sebbene si accorse che lo stava facendo arrabbiare. Lo stato del mercato potrebbe essere tale da impedire loro di darvi la stessa remunerazione. Ah, oh, il mercato! Questa non è altro che una presa in giro dei padroni. È di paghe che stavo parlando. I padroni il mercato lo tengono in pugno e lo sbandierano in giro come l'uomo nero per spaventare i bambini cattivi e farli stare buoni. Vi dico, è la loro parte, il loro ruolo, come lo chiama certa gente, quella di buttarci giù, di aumentare le loro ricchezze, e della nostra, quella di alzarci e combattere con forza, non solo per noi stessi, ma per quelli che ci circondano, per la giustizia e la correttezza. Noi li aiutiamo a realizzare i loro profitti e noi glieli dobbiamo fare pure spendere. Non è tanto la loro grana che vogliamo stavolta, come tante volte in passato. Abbiamo dei soldi da parte, siamo decisi a soffrire e a cadere insieme. Non uno di noi tornerà in fabbrica per una paga inferiore a quella che il sindacato dice che ci spetta. Quindi dico hurra per lo sciopero e che stiano attenti Thornton, Slackson e Hamper. Thornton? Esclamò Margaret. Il signor Thornton di Marlborough Street? Ah, Thornton di Marlborough Mill, come lo chiamiamo noi. È uno dei padroni contro cui state lottando, vero? Che tipo di padrone è? Ah, oh, avete mai visto un bulldog? Mettete un bulldog sulle zampe posteriori e buttategli addosso cappotto e brache, ed ecco a voi John Thornton. Oh, disse Margaret ridendo, non è vero. Il signor Thornton non è un gran bell'uomo, ma non assomiglia a un bulldog, con il naso corto e largo e con il labbro superiore che gli si alza quando ringhia. No, no, non di aspetto, è vero, ma lasciate che John Thornton si metta in testa una cosa e ci si attaccherà come un bulldog. Lo potete minacciare con la forca prima che lasci la presa. Vale la pena battersi con sto John Thornton. Quanto a Slackson, secondo me, uno di sti giorni convincerà i suoi uomini a rientrare con belle promesse che verranno smascherate appena saranno di nuovo sotto il suo potere. Gliela farà pagare, lo garantisco. È viscido come un serpente quello là, e come un gatto col pelo liscio, furbo e aggressivo. Non sarà mai una battaglia onesta con lui, come sarà con Thornton. Thornton è un uomo di ferro, un tipo ostinato fino all'osso, il vecchio bulldog. Povera Bessie, disse Margaret girandosi verso di lei. Queste cose ti fanno sospirare tutto il tempo. Non ti piace lottare senza sosta come tuo padre, vero? No, disse lei con durezza, sono stufa di lottare. Che potevo anche desiderare di sentire altre chiacchiere intorno a me nei miei ultimi giorni e non solo sto fracasso, sto vociare che mi fa diventare sorda sul lavoro e la paga e sui padroni e i manovali e i crumiri, cose che ho sopportato tutta la vita. Povera ragazza, dannati ultimi giorni, statevene lontani. Già stai meglio, mi sembra, per un po' di trambusto e novità, e poi starò qui con te un sacco di più a rendere più vivace questo posto. Il fumo del tabacco mi soffoca, disse lei in tono lamentoso. Allora non ci fumerò mai più dentro casa, rispose lui teneramente. Ma perché diamine non me l'hai detto prima, sciocchina che non sei altro? Lei rimase per un po' in silenzio. E poi con la voce così bassa che soltanto Margaret sentì, disse: Secondo me non c'è niente che gli dà più sollievo di fumare o bere prima di andare a dormire. Suo padre uscì fuori, evidentemente per finire la sua pipa. Bessie, disse con foga, non sono mica una sciocca, non è vero, signorina? Ecco, lo sapevo che dovevo tenere papà a casa e lontano dalla gente, sempre pronta a spingere un uomo ad andare a bere quando c'è uno sciopero. Ed ecco che devo mettere lingua su sta pipa e così uscirà. So che lo farà ogni volta che vorrà farsi una fumata. E dove finirà, Dio solo lo sa, meglio se mi soffoco prima. Per caso tuo padre beve? Domandò Margaret. No, non è che beve, rispose lei sempre con la stessa foga. Ma con cosa può tirarsi su? Anche per voi e per gli altri, immagino, ci saranno dei giorni che uno si alza e passa le ore a desiderare che succeda qualcosa, qualcosa di nuovo, diciamo. So che io sono andata da un altro panettiere, ho comprato 2 chili di pane al parco in quei giorni, soltanto perché mi veniva la nausea a pensare di andare avanti per sempre con la stessa vista davanti agli occhi, lo stesso suono nelle orecchie, lo stesso sapore nella bocca e in testa gli stessi pensieri, o meglio, nessuno nel caso mio, giorno dopo giorno per l'eternità. Ho desiderato essere un uomo per andare a zonzo a far baldoria, anche se era solo una lunga scarpinata in qualche posto nuovo a cercare lavoro. E papà, e così tutti gli uomini, c'hanno anche più ragione di me essere stufi di fare sempre le stesse cose, del lavoro che è sempre lo stesso. E che cosa devono fare? C'è da dargli poca colpa che vanno nelle botteghe del gin per far scorrere più veloce il sangue nelle vene e con più energia. E vedono cose che non vedono mai quando sono sobri, ritratti, specchi e robe del genere. Ma papà non è mai stato un ubriacone, anche se forse ogni tanto ci va giù pesante, ma cercate di capire. E ora il tono della sua voce si fece triste e supplichevole. Quando c'è lo sciopero ci sono tante cose che mettono a terra un uomo, perché tutti all'inizio ci hanno tante speranze e dove lo trova un sollievo? Si arrabbia e diventa furioso, tutti lo fanno, e poi si stufano di essere arrabbiati e furiosi, e magari spinti dalla passione hanno fatto cose che sono contenti di dimenticare. Benedetto il vostro dolce viso misericordioso, ma voi non lo sapete ancora cos'è uno sciopero. Su, Bessie, disse Margaret. Non dirò che stai esagerando perché non ne so abbastanza, ma forse, siccome non stai bene, guardi soltanto da una parte mentre ce n'è un'altra più luminosa da guardare. Fate presto a parlare così voi. Si dà il caso che avete vissuto in bei posti, immersi nel verde tutta la vita e non avete mai conosciuto la povertà o la preoccupazione, neanche la cattiveria. Stai attenta come giudichi, Bessie, disse Margaret con le guance in fiamme e le scintille negli occhi. Devo tornare a casa da mia madre che è così malata, Bessie, che non esiste altra via di fuga per lei dalla prigione, della sua enorme sofferenza se non la morte. E poi devo essere allegra quando parlo con mio padre, che non ha idea del suo vero stato di salute e deve esserne messo a conoscenza gradualmente. L'unica persona che potrebbe comprendermi e aiutarmi, la cui presenza sarebbe di conforto per mia madre più di ogni altra cosa, è ingiustamente accusata e correrebbe il rischio di morire se venisse a vedere sua madre che sta morendo. Questo lo dico a te soltanto, soltanto a te, Bessie. Non devi mai parlarne, nessun altro a Milton, ma difficilmente qualcuno in tutta l'Inghilterra ne è al corrente. E non ho forse preoccupazioni. Non conosco l'inquietudine, benché vada in giro ben vestita e abbia cibo a sufficienza. Oh, Bessie, Dio è giusto, le nostre sorti sono ben proporzionate, sebbene soltanto Lui conosca l'amarezza delle nostre anime. Oh, vi chiedo perdono, disse Bessie umilmente. Certe volte, quando ho pensato alla mia vita e ai pochi piaceri che ci ho avuto, ho creduto che forse ero una di quelli destinati a morire alla caduta di una stella dal cielo. La stella si chiama Assenzio. Un terzo delle acque si mutò in Assenzio e molti uomini morirono a causa di quelle acque che erano divenute amare. È scritto nell'Apocalisse. Si riesce a sopportare meglio il dolore e la tristezza se si pensa che è stato profetizzato tanto tempo prima, no? In qualche modo poi mi sembra che la mia sofferenza è servita perché ogni cosa deve essere compiuta, altrimenti sembra che è stata mandata tutta per niente. No, Bessie, rifletti, disse Margaret. Non è la volontà di Dio quella di affliggere. Non soffermarti così tanto sulle profezie, ma leggi le parti più chiare della Bibbia. Che può essere anche più saggio, ma dove le trovo parole di promesse così grandi, se non nell'Apocalisse? Dov'è che sentirò raccontare di cose tanto diverse da sto mondo triste e da sta città, soprattutto? Molte volte ho ripetuto tra me e me i versi del settimo capitolo, solo per il suono. È bello come quello di un organo e anche così diverso da tutti i giorni. No, non posso smettere di leggere l'Apocalisse, mi tira su più di qualsiasi altro libro della Bibbia. Permettimi di venire a leggerti i miei capitoli preferiti. Sì, rispose impaziente. Beh sì, venite. Papà forse vi ascolterà, è stufo dei miei discorsi, dice che non c'entrano niente coi fatti di oggi e lui di quelli si vuole occupare. Dov'è tua sorella? A tagliare il fustagno. Non volevo farla andare, ma in qualche modo dobbiamo vivere e il sindacato non può darci molto. Ora devo andare. Mi hai fatto stare meglio, Bessie. Io? Io vi ho fatto del bene? Sì, quando sono arrivata qui ero molto triste. E anche troppo incline a pensare di essere l'unica al mondo ad avere motivo di soffrire. E ora sento cosa hai dovuto sopportare per anni, e questo mi rende più forte. Oh, Dio vi benedica. Pensavo che fare del bene era una cosa da ricchi. Peccherò di superbia se penso che posso farvi del bene. Non peccherai se lo pensi, ne sarai solo sbalordita, questo è sicuro. Io non ho mai incontrato una come voi. Non so cosa pensare di voi. Neanche io lo so. Arrivederci. Bessie smise di dondolarsi per fissarla. Chissà se c'è molta gente come lei giù al sud. È come una boccata d'aria di campagna. In certo senso mi rinfresca un bel po'. Ma va tu a pensare che quel visetto, luminoso e deciso come quello dell'angelo che mi sogno sempre, poteva conoscere la sofferenza che dice. Chissà che peccati fa. Tutti quanti li facciamo. C'ho simpatia per lei, sicuro, ma anche papà piace, lo vedo, e a Mary pure. E lei raramente si interessa a qualcuno. 18. Simpatie e antipatie. Al suo ritorno a casa, Margaret trovò due lettere sul tavolo. Una era un messaggio per sua madre, l'altra, arrivata per posta, era sicuramente della zia Shaw, tutta ricoperta di timbri esteri, sottile, argentata e frusciante. Prese in mano l'altra lettera e mentre la esaminava suo padre entrò all'improvviso. Così tua madre è stanca ed è andata a letto presto, vero? Temo che per il dottore non sia stata la giornata ideale per venire a visitarla con tutti i temporali di oggi. Che cosa ha detto? Ho saputo da Dixon che ha parlato con te? Margaret esitò e lo sguardo del padre si fece più serio e preoccupato. Non penserà che sia malata seriamente? Per il momento no, papà, dice che ha bisogno di cure. È stato molto gentile e ha detto che ripasserà per vedere se le sue medicine fanno effetto. Soltanto cure? Non le ha raccomandato di cambiare aria? Non ha detto che questa città fumosa le stava facendo male, vero Margaret? No, neanche una parola, rispose lei, seria. Credo che fosse impaziente di andarsene. Oh, i dottori hanno quell'atteggiamento sbrigativo, fa parte del loro lavoro, disse lui. Margaret si accorse dai modi nervosi del padre che una prima sensazione di possibile pericolo prendeva forma nella sua mente, a dispetto di tutti i suoi tentativi di prendere alla leggera quello che lei gli aveva detto. Non riusciva a non pensarci, non riusciva a parlare d'altro. Ritornò in continuazione sull'argomento per tutta la sera, rifiutandosi di accettare ogni idea negativa, anche la più insignificante, il che rendeva Margaret immensamente triste. Questa lettera è di zia Shaw, papà. È arrivata a Napoli e l'ha trovata troppo calda e così ha preso delle stanze a Sorrento. Ma non credo che l'Italia le piaccia. Non ha detto niente sulla dieta, vero? Deve mangiare cibi nutrienti e digeribili. Ha abbastanza appetito la mamma, penso. Sì, per questo è così strano che abbia pensato di parlare della dieta. Gliel'ho chiesto io, papà. Ancora una pausa. Poi Margaret continuò. Zia Shaw dice che mi ha spedito dei gioielli in corallo, papà, ma, aggiunse Margaret abbozzando un sorriso, ha paura che non piaceranno ai dissidenti di Milton. I Quaker le hanno inculcato tutte queste idee sui dissidenti, non trovi? Se ti capita di sentire o di notare che tua madre desidera qualcosa, bada bene di farmelo sapere, sai? Ho così paura che non mi dica sempre quel che desidera. Ti prego, occupati di quella ragazza che ci ha nominato la signora Thornton. Se avessimo una domestica brava ed efficiente, Dixon potrebbe stare sempre con lei. E ti garantisco che se le cure funzioneranno, l'avremo presto di nuovo tra noi. Negli ultimi tempi si è stancata molto per il caldo e la difficoltà di trovare una domestica. Un po' di riposo la rimetterà in salute. Eh, Margaret? Lo spero. Rispose, ma la tristezza della sua voce era tale che suo padre se ne accorse e le diede un pizzicotto sulla guancia. Oh, vieni, se sei così pallida, ti devo far tornare un po' di colore sulle guance. Non trascurarti, bambina mia, o sarai tu ad avere bisogno del dottore la prossima volta. Ma quella sera non riuscì a mettersi a fare nulla. Continuava a camminare in punta di piedi, avanti e indietro, a fatica, per vedere se la moglie stava ancora dormendo. A Margaret piangeva il cuore di fronte alla sua inquietudine, al suo tentativo di soffocare e reprimere l'orribile paura che si stava delineando nei meandri bui del suo cuore. Alla fine tornò ed era in qualche modo sollevato. Si è svegliata, Margaret. Mi ha fatto un piccolo sorriso vedendomi lì in piedi accanto a lei, proprio come un tempo, e dice che si sente riposata e pronta per il tè. Dov'è il biglietto per lei? Vuole vederlo? Glielo leggerò mentre prepari il tè. Il biglietto era un formale invito a cena per il signore e la signorina Hale da parte della signora Thornton il 21 di quel mese. Margaret fu sorpresa di vedere che non si escludeva la possibilità di accettare, nonostante avesse sentito tristi pronostici per tutto il giorno. Ma di fatto era così. L'idea che il marito e la figlia andassero a quella cena aveva solleticato la fantasia della signora Hale ancora prima che Margaret apprendesse il contenuto del biglietto. Era uno di quegli eventi che porta qualcosa di nuovo nella vita monotona di un malato, e la signora Hale si attaccò ostinatamente all'idea che loro andassero persino con un certo nervosismo all'obiezione di Margaret. No, Margaret, se è un suo desiderio, sicuramente ci andremmo volentieri entrambi. Non ce lo chiederebbe mai se non si sentisse davvero più in forze, davvero meglio di quanto pensiamo, eh, Margaret? Disse il signor Hale agitato. Il giorno seguente, mentre si preparava a scrivere un biglietto di conferma. Margaret? Domandò lui con un movimento nervoso delle mani. Sembrava crudele negargli quel conforto che desiderava avidamente, e per di più il suo deciso rifiuto di ammettere che aveva paura fece sentire alla stessa Margaret un po' di speranza. Penso davvero che da ieri sera stia meglio, disse lei. I suoi occhi sembrano più brillanti e la sua pelle è più luminosa. Oh, Dio ti benedica, disse il padre in tono serio. Ma è vero, c'era così tanta afa ieri che tutti stavano male. Il dottor Donaldson ha scelto il giorno più sfortunato per visitarla. Quindi si allontanò per svolgere i suoi compiti quotidiani, incrementati ora dalla preparazione di alcune lezioni che aveva promesso di fare ad alcuni lavoratori in un liceo lì vicino. Come argomento aveva scelto l'architettura ecclesiastica che si sposava di più con il suo gusto personale e con il suo sapere, invece che con le caratteristiche del luogo o il desiderio di qualche informazione specifica tra i suoi alunni. E la stessa istituzione, piena di debiti, non poteva che essere lieta di avere un corso gratuito da parte di un uomo istruito ed esperto come il signor Hale, qualsiasi fosse l'argomento. Allora, madre? Chiese il signor Thornton quella sera. Chi ha risposto ai vostri inviti per il 21? Fanny, dove sono i biglietti? Gli Slikeson confermano, i Collingbrook confermano, gli Stevens anche, i Brown declinano. Gli Hale, padre e figlia, vengono. La madre ha una seria indisposizione. I Macpherson ci saranno, il signor Horsfall e il signor Young. Stavo pensando di invitare i Porter dal momento che i Brown non verranno. Molto bene. Sapete, temo che la signora Hale non stia per niente bene, stando a quello che ha detto il dottor Donaldson. Trovo strano che accettino un invito a cena se è molto malata, disse Fanny. Non ho detto molto malata, disse il fratello piuttosto secco. Ho detto solo che non sta per niente bene. Forse loro neanche lo sanno. E poi improvvisamente si ricordò che da quello che gli aveva detto il dottor Donaldson, Margaret in qualche modo doveva essere a conoscenza di come stavano realmente le cose. Molto probabilmente sono ben consapevoli di quello che hai detto ieri, John, di quale grande vantaggio sarebbe per loro, per il signor Hale, intendo, essere presentati a certa gente come gli Stevens e i Collingbrook. Sono certo che non sia questo il motivo che li ha condizionati, no? Penso di aver capito come stanno le cose. Oh, John, disse Fanny con la sua fiacca risatina nervosa, continui a professare di capire questi Hale e non vuoi concederci di sapere qualcosa di loro? Sono davvero così diversi dalla maggior parte della gente che si incontra? Non intendeva infastidirlo, ma se avesse avuto questa intenzione non avrebbe potuto fare di meglio. Tuttavia lui tenne per sé la sua irritazione, senza abbassarsi a rispondere alla domanda. A me non sembrano fuori dal comune, disse la signora Thornton. Lui pare un uomo piuttosto rispettabile. Un po' troppo ingenuo per il commercio, quindi forse è un bene che sia stato prima un reverendo e che adesso faccia il precettore. Lei è una signora piuttosto raffinata con quei suoi malanni. E quanto alla ragazza, è l'unica che mi lascia un po' perplessa quando ci penso, e non la penso spesso. Mi pare che abbia un'alta considerazione di sé e si dia delle arie, e non riesco a capirne la ragione. Potrei quasi credere che a volte pensi di essere sprecata per la compagnia che frequenta. Eppure non sono ricchi, da quello che so, non lo sono mai stati. E non è una ragazza di classe, mamma, non sa suonare? Via, Fanny, cosa deve avere ancora per raggiungere il tuo livello? No, John, disse sua madre, Fanny non sta dicendo nulla di male. Io stessa ho sentito la signorina Hale che diceva di non saper suonare. Se ci lasciassi da sole, forse potrebbe piacerci e potremmo vedere i suoi pregi. A me non piacerà mai, mormorò Fanny nascosta dietro sua madre. Il signor Thornton la sentì, ma non si curò di rispondere. Camminava su e giù per la sala da pranzo e desiderava che sua madre facesse accendere le candele per mettersi al lavoro leggendo o scrivendo, ponendo in tal modo fine a quella conversazione. Ma non ci pensava proprio a interferire nelle piccole regole di casa che la signora Thornton osservava nel costante ricordo del suo passato di ristrettezze. Madre, disse lui, fermandosi prima di trovare il coraggio di dire la verità, vorrei che la signorina Hale vi piacesse. Perché? Domandò lei, colpita dai suoi modi sinceri e dalla sua tenerezza. Non starai pensando di chiederla in moglie? Una ragazza senza un penny? Oh, non mi vorrebbe mai, disse lui con un sorrisino. No, penso di no, rispose sua madre. Mi ha riso in faccia quando mi sono complimentata con lei per la sua franchezza nel riferire quel che il signor Bell aveva detto in tuo favore. La ragazza mi è piaciuta per la sua onestà, perché mi rende sicura del fatto che non abbia nessuna mira su di te. E un attimo dopo mi ha così infastidita, visto che sembrava pensare. Beh, non fa niente. Hai proprio ragione nel dire che ha un'opinione troppo alta di sé per prenderti in considerazione. Che sfacciata! Mi piacerebbe sapere dove potrebbe trovare uomo migliore. Se il figlio fosse stato ferito da queste parole, la fosca luce gli avrebbe risparmiato di rivelare qualsiasi emozione. In un minuto si fece piuttosto allegro e andò da sua madre, e posandole delicatamente una mano sulla spalla, disse: Bene, poiché sono convinto quanto voi della verità di ciò che dite, e dal momento che non ho alcuna intenzione o speranza di chiederla in moglie, credetemi che non mi importerà affatto parlare di lei d'ora in poi. Prevedevo difficoltà per questa ragazza. Forse le verranno a mancare le cure di una madre e desidero soltanto che voi siate pronta a esserle amica nel caso ne abbia bisogno. Ora, Fanny, disse lui. Mi auguro che tu abbia abbastanza delicatezza da capire che sarebbe una grande offesa per la signorina Hale, come per me, in realtà per lei sarebbe un'offesa ben più grande, supporre che io abbia una qualsiasi altra ragione, oltre a quella che vi ho dato, di pregare te e nostra madre di prestarle ogni gentilezza. Non posso passare sopra il suo orgoglio, disse sua madre. Sarò benevola con lei se ce ne sarà bisogno, perché me lo chiedi tu, John. Mi farei amica anche Jezebel, la malvagia moglie del re di Israele Acab, se fossi tu a chiedermelo. Ma questa ragazza che storce il naso davanti a tutti noi, che storce il naso davanti a te. Su, via, madre, non mi sono mai fatto prendere dal suo disprezzo, né ho alcuna intenzione di farlo. Disprezzo, giusto. La signora Thornton fece uno dei suoi sbuffi espressivi. Non parliamo più della signorina Hale, John. Se devo essere gentile con lei, quando sono in sua compagnia non so dire se provo più simpatia o antipatia, ma quando la penso e ti sento parlare di lei, la detesto. Posso immaginare che si sia data delle arie con te proprio come se me lo avessi raccontato. E se lo ha fatto, disse lui, e poi si fermò un istante e quindi continuò, non sono un ragazzo che si intimidisce davanti alla superbia di una donna o che si preoccupa se fraintende sia me che la mia posizione. Posso riderci sopra. Ma di sicuro. E lei poi con quelle sue idee sofisticate, quei suoi modi altezzosi. Mi chiedo solo come mai parli così tanto di lei, allora, disse Fanny. Io di certo mi sono un po' stancata dell'argomento. Bene, disse suo fratello con una velata amarezza. Supponiamo di trovare un argomento più gradevole. Che ve ne pare di uno sciopero, appunto per parlare di qualcosa di piacevole? I manovali sono usciti allo scoperto? Domandò la signora Thornton con vivo interesse. Gli uomini di Humper sì, per paura di essere denunciati per inadempimento contrattuale. I miei arriveranno alla fine della loro settimana. Li avrei presi uno per uno e li avrei puniti per aver lasciato il lavoro prima della fine del turno. Le spese legali sarebbero state maggiori di quanto possano valere i manovali stessi, una massa di nullità, ingrati, disse sua madre. Ah, di sicuro, ma io avrei fatto vedere loro come mantengo la mia parola e cosa vuol dire per me che loro mantengano la propria. Ormai mi conoscono. Gli uomini di Slykson se ne sono andati e di certo lui non spenderà soldi per farli punire. Ci aspetta uno sciopero, madre. Spero solo che non ci siano troppi ordini in corso. Certo che ce ne sono, lo sanno bene loro, ma non capiscono proprio nulla anche se sono convinti del contrario. Che cosa vuoi dire, John? Avevano portato le candele e Fanny tra gli sbadigli aveva cominciato il suo interminabile lavoro a maglia. Di tanto in tanto si distendeva all'indietro sulla sua poltrona per fissare il vuoto e riposare senza pensare a niente. Che gli americani stanno conquistando il mercato generale dei filati, disse lui. E l'unica possibilità che abbiamo è quella di produrre i nostri a un prezzo più basso. Se non ci riusciamo, tanto vale che chiudiamo bottega e che padroni e operai vadano tutti a mendicare. Ora questi idioti ritornano ai prezzi di 3 anni fa. Anzi, alcuni dei loro capi adesso ripropongono i prezzi di Dickinson. Anche se lo sanno, come lo sappiamo noi, che vuoi per le ammende che nessuna persona per bene applicherebbe, e vuoi per altri metodi che io per primo mi rifiuterei di utilizzare, l'ammontare effettivo dei salari che paga Dickinson è più basso del nostro. Ah, giuro, madre, vorrei che fossero in vigore le vecchie leggi. È un peccato scoprire che degli stolti, uomini ignoranti e capricciosi come questi, soltanto unendo le loro stupide e deboli testoline, stiano a dettar legge sulle fortune di coloro che possiedono la saggezza, la conoscenza e l'esperienza. Non senza pensieri amari e preoccupazioni. Il prossimo passo, davvero siamo tutti proprio arrivati a questo adesso, sarà che dovremo andare a chiedere umilmente, col cappello in mano, al segretario dell'Unione dei Filatori di essere così gentile da fornirci la manodopera al loro prezzo. Questo è quel che vogliono loro, che non hanno il buon senso di comprendere che se qui in Inghilterra non otteniamo la giusta parte di profitto che ci compensa per il nostro logoramento, potremmo cominciare a trasferirci in un altro paese, che data la concorrenza in casa e all'estero, nessuno di noi ha la minima intenzione di guadagnare più del giusto, e che se riusciamo a tirare avanti per qualche anno possiamo essere tutti ben contenti. Non puoi far venire manodopera dall'Irlanda? Io non terrei questi individui un giorno di più. Insegnerei loro che io sono il padrone e posso assumere i dipendenti che voglio io. Sì, certo che posso e lo farò se andranno avanti troppo a lungo. Sarà difficile e dispendioso e temo che ci sarà qualche pericolo, ma lo farò piuttosto che arrendermi. Se ci dovranno essere tutte queste spese impreviste, mi dispiace dare una cena proprio adesso. Anche a me dispiace, non per le spese, ma perché avrò molto a cui pensare e molti visitatori inaspettati nel mio tempo libero, ma avremmo dovuto ricevere il signor Horsfall e lui non si tratterrà a lungo a Milton. Quanto agli altri, l'unico problema è che dobbiamo offrire loro la cena. Continuò a camminare irrequieto, senza più parlare, ma facendo un profondo sospiro di tanto in tanto, come se si stesse sforzando di cacciar via qualche fastidioso pensiero. Fanny fece alla madre tutta una serie di domandine che non avevano nulla a che fare con l'argomento, una persona più giudiziosa l'avrebbe capito, dal quale era completamente assorbita. Di conseguenza ricevette molte risposte secche. Non le dispiacque quando alle 10 in punto i domestici entrarono uno dopo l'altro per la preghiera. La leggeva sempre sua madre, incominciando con un capitolo. Stavano studiando assiduamente il Vecchio Testamento. Dopo che le preghiere furono terminate e che sua madre gli ebbe augurato la buonanotte, con quel suo lungo sguardo profondo che non svelava nulla della tenerezza che aveva nel cuore, ma che comunque aveva l'intensità di una benedizione, Thornton continuò a camminare. Tutti i suoi piani produttivi erano stati controllati e immediatamente ridimensionati a causa di quello sciopero ormai prossimo. La prudenza di numerose ore di preoccupazione era sparita, cancellata del tutto dall'insensata follia di quegli uomini che avrebbero fatto ancora più male a se stessi che a lui, sebbene né loro né lui fossero in grado di porre un limite al danno che stavano causando. E questi erano gli uomini che si reputavano in grado di dare ordini ai padroni su come disporre del loro capitale. Humper aveva detto proprio quel giorno che se quello sciopero l'avesse mandato in rovina, avrebbe iniziato una nuova vita, confortato dalla convinzione che coloro che lo avevano provocato si trovavano in una situazione ancora più spiacevole della sua, dal momento che lui, oltre alle mani, aveva una testa, mentre gli operai avevano soltanto le mani. E se si fossero giocati il mercato, non avrebbero potuto stargli dietro né mettersi a fare qualcos'altro. Ma questo pensiero non consolava per niente il signor Thornton. Forse perché la vendetta non gli dava nessuna soddisfazione, o forse dava un così grande valore alla posizione che si era guadagnato con il sudore della sua fronte, che sentiva di essere profondamente messo in pericolo dall'ignoranza e dalla stoltezza degli altri. Così profondamente che non aveva pensieri da dedicare a quelle che sarebbero state le ricadute del loro comportamento su loro stessi. Camminava su e giù, stringendo un po' i denti ogni tanto, infine suonarono le due e le fiamme delle candele erano tremolanti. Ne accese una, mormorando tra sé e sé: «Devono sapere con chi hanno a che fare una volta per tutte. Darò loro 2 settimane, non un giorno di più. Se non si accorgeranno della loro pazzia in questo lasso di tempo, assumerò manovali irlandesi. Deve essere colpa di Slykson, ne sono convinto, maledetto lui e i suoi traffici. Pensava di aver accumulato troppa merce, così quando la delegazione è andata da lui è sembrato arrendersi all'inizio e naturalmente li ha solo incoraggiati nella loro pazzia. Ecco da dove è nato tutto.